porteresti da chi ami un attimo, ma siamo due nemici, come hai già capito. Troverò dove tu dormi, incauta di, e corro ai tuoi ordini, nudi come angeli, e salvi, noi non saremo ma tu. Irraggiami e salvi, noi non potremo, ma forse in questo sogno sì. E mi chiameresti un tassi o qui, non esistono mardi, e volerò a prenderti anche se è nero dove abito. Sì, capirò ciò che tu taci, dirmelo, e parlerò ai tuoi dèi, prego per darmi lei. Salvi, noi non saremo, ma tu irraggiami. Irraggiami e salvi, noi non potremo, ma forse in questo